Trieste in questi giorni torna al centro della Fiera Internazionale dell'Editoria Scientifica dal 16 al 20 aprile. Ci sono moltissimi temi, molte segnalazioni che possono trovare i nostri ascoltatori anche sul nostro sito, quindi che vengono rilanciate su questi incontri. Noi oggi parliamo di uno di questi aspetti, di uno dei temi che vengono trattati, e lo facciamo con Peppe Dell'Acqua, che è il responsabile del distretto di salute mentale di Trieste. Buongiorno. Buongiorno. Allora, diciamo in breve, il 2008 ricorre il centenario della costruzione di quello che è stato uno dei maggiori manicomi del centro Europa, l'ospedale psichiatrico sulla collina di San Giovanni a Trieste. Sì. Sempre nel 2008 ricorrono i 30 anni dalla riforma della salute mentale avviata in Italia da Franco Basaglia, che ha portato la legge 180, cioè la chiusura definitiva dei manicomi, a cominciare appunto dal Francesco Giuseppe I a Gorizia e a quello di San Giovanni a Trieste. Questo cambiamento si è radicato nella società, dottor Dell'Acqua? Ma io penso molto di più di quanto non si riesca a ragionare, a pensare, molto ma molto di più, nel senso che in questi 30 anni è cambiato tutto radicalmente, insomma, nel nostro modo di vedere, di percepire su questa questione le persone con disturbo mentale. Quello che fa fatica a cambiare è la cultura psichiatrica, insomma, è la cultura degli psichiatri, e quindi sono le pratiche che in molti posti finiscono per essere estremamente poco rispondenti ai bisogni delle persone. Cioè, dice, c'è più sensibilità dalla società che non all'interno di chi fa questo mestiere, se ho ben capito? Assolutamente. Se lei pensa che, non so, Simone Cristicchi ha vinto al Sanremo con una canzone così bella che è stata accolta da tutti in Italia, e vuol dire questo. La legge 180, d'altra parte, non è la legge che chiude i manicomi, è una conseguenza la chiusura dei manicomi. La legge 180 è un colpo, si potrebbe dire, cruciale, definitivo a una cultura psichiatrica, una cultura che si occupa di malattia e non di persona, che rende oggetti le persone, che determina la inguaribilità, che dichiara la pericolosità. E la cultura che viene, la legge ripropone persone, ripropone cittadini, dice: ma questi internati del manicomio sono cittadini o no? Risponde di sì, e nel momento in cui risponde di sì si apre una questione che ancora non si è conclusa, naturalmente, perché i bisogni delle persone con disturbo mentale e delle loro famiglie sono enormi e disattesi per secoli, insomma, no? Ed è questo il percorso che noi stiamo facendo, e credo che questi 30 anni segnano una cosa, che niente nel nostro paese è più come prima, e ci fanno vedere tutte le cose possibili che ci sono davanti, i passaggi ulteriori, i servizi, la prossimità, la possibilità per le persone di diventare protagonisti, e ci fanno anche vedere quali sono i punti di resistenza e quindi le battaglie ulteriori che bisogna compiere, insomma. Una resistenza che è anche data dall'impegno continuo, emotivo, il vostro lavoro, ma anche economico, che richiede una struttura di accompagnamento che è obiettivamente non solo molto più umana, evidentemente, rispetto a quello che era, ma anche più complessa. Certo, è molto complessa. Cioè, nel momento in cui noi spostiamo la nostra attenzione dalla malattia alla persona, noi dobbiamo cogliere, e non possiamo non farlo, la globalità dei suoi bisogni, delle sue relazioni, delle sue reti sociali, e quindi il percorso, come dire, di guarigione, il percorso di ripresa, il percorso di integrazione comincia a diventare un qualche cosa che pretende uno sguardo collettivo, che pretende interventi estremamente articolati. Ecco, noi qui oggi a Trieste sperimentiamo quello che chiamiamo il progetto individuale, il budget di salute, come se stabilissimo che una persona, il suo programma vale 100, per dire, e su quei 100 euro noi dobbiamo costruire un vestito apposta per lui, insomma, no? Dalle attività squisitamente terapeutiche a quelle di socializzazione, a quelle abilitative, al rapporto con la famiglia. Cioè, oggi noi davvero possiamo mettere in campo strategie e dispositivi perché le persone guariscano. Se non lo facciamo è perché appunto ancora persistono resistenze culturali nell'ambito della psichiatria, ancora persistono modalità di organizzazione di servizi in molte regioni d'Italia che sono assolutamente, mi verrebbe da dire, stupide, nel senso di non avere come obiettivo appunto la guarigione delle persone, e ci sono degli investimenti di risorsa molte volte assolutamente limitati e incongrui, quindi. Ecco, San Giovanni è un luogo emotivamente anche molto toccante. Io ho avuto la fortuna, e credo tutti quelli che come me hanno avuto la fortuna di venirla a trovare nel suo ufficio, di toccare una realtà sbalorditiva che si apprezza soprattutto quando poi si legge quello che era il mondo carcerario, mi viene da dire, il mondo del manicomio prima di queste riforme. Oggi è un luogo dove si può entrare, prendere il caffè in un luogo molto bello, in mezzo agli alberi. Il posto delle fragole, con una sensazione però di sospensione, anche di pudore, perché si percepisce comunque che quello non è e non può essere così leggermente un luogo di gioia. Ma questo per dire che questo adesso lo è pienamente. In questi giorni, mentre c'è il fest e noi siamo invitati appunto a partecipare, qui a San Giovanni c'è la terza edizione di quella che si chiama Gli Orti Tergestini, c'è una grande esposizione centroeuropea di giardinieri, di fiori e di piante. Oggi il parco di San Giovanni è completamente ristrutturato, c'è un roseto con 5.000 rose. Ci sono 5 padiglioni che sono diventati università, quindi ci sono giovani studenti di fisica, di geologia, di biologia. Ci sono 2 scuole, 2 istituti superiori, c'è un distretto sanitario, c'è un bar appunto e un ristorante, il posto delle fragole, c'è un autobus che attraversa il parco, c'è il Dipartimento di Salute Mentale dove io lavoro, cioè la sede, la casa madre, diciamo, e altre cose che hanno a che vedere con la città. È diventato un parco dove le persone portano i bambini, dove vengono a passeggiare con i cani, dove ci sono i percorsi di salute. Si sta realizzando quella utopia alla quale neanche osavamo immaginare 30 anni fa, che questo luogo, da luogo di morte, da luogo di reclusione, diventasse un luogo di vita e di gioia, insomma. Ecco, per coglierlo pienamente, questo sta accadendo, e questo è importante, e in questo senso suggerisco a chi capitasse per Trieste magari di prendersi un'ora per un caffè al posto delle fragole, magari con un libro in mano. E il suo libro, Non ho l'arma che uccide il leone, perché qui si ritrova quello che è stato, cioè gli anni del passato attraverso le storie dei degenti. Sì, beh, è un libro che, diciamo, siccome comincio a diventare vecchio, avevo l'assoluta necessità di, perlomeno sentivo questa urgenza, di raccontare quei 10 anni, no? Sono 10 anni che hanno cambiato la mia vita, ma credo che abbiano cambiato anche molto, no? Il nostro modo di guardare alle persone che vivono questa esperienza. Sono gli anni 70, gli anni di Basaglia, ed è un racconto appunto che ho fatto per mio figlio, insomma, che ha 30 anni, e per quelli che verranno, insomma. E racconta proprio di questo, ecco, di questi passaggi così importanti. Tante storie, lo ricordo, Non ho l'arma che uccide il leone, Peppe Dell'Acqua, che ringrazio per averci ricordato che le cose cambiano, a volte non ce ne rendiamo conto, ma ci sono dei percorsi appunto che stanno andando molto avanti. Grazie. Credo che non si possa più tornare indietro, anche se magari qualcuno ogni tanto dice qualcosa in questo senso. Grazie al dottor Peppe Dell'Acqua. Arrivederci. Tagliamo qui. Pronto?